non me dà pace sto desiderio te. Accarezzami o sti mani vellutate, fai scorda tutte peccate, stringimi in braccio a te. Sotto sto cielo tra puntate stelle me fai sentir sti detti in te capille. Voglio sonna basa a me sto occhio belle, voglio sonna cu te, accarezza me, senta fronte che ma brucia, ma perché non me dà pace sto desiderio te. Sto cielo tra puntate stelle me fai sentir sti detti in te capille. Voglio sonna basamme sto occhio belle, voglio sonna con te, accarezzame, senta fronte che mi brucia, ma perché non me dà pace sto desiderio te, desiderio.